E allora buon pomeriggio a tutte e a tutti, la vostra radio è sempre sintonizzata su 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. E allora, che se abbiamo cambiato mese, siamo nel secondo mese di questo 2018. Allora Luca, torniamo con gli ospiti musicali, Finalmente, tu giovedì scorso te la sei persa, influenzato, e abbiamo ricordato Ugma Sekela, ma oggi di nuovo ospiti dopo Guido Gaito di due settimane fa. Oggi invece ci è venuto a trovare un personaggio storico. Oggi abbiamo un ospitone, un fratello della radio, uno delle colonne portanti della musica romana. Stiamo parlando di Stefano Iguana dei Fleur du Mal. Ciao Stefano. Ciao a tutti, dai forte. Ciao a tutti. Ciao a tutti, dai forte. Grande Stefano. Ma insomma, con i Fleur du Mal, ma quanti anni so che andate in giro? Ormai siamo sui 30, State siamo sui 30, trentina. Mannaggia, oh. La radio sta sui 40, quindi stiamo là, Sì. Beh, l'abbiamo detto, è un personaggio storico. Colonna portante della musica romana, decisamente. Grazie ragazzi, è un piacere stare qui a Radio Onda Rossa, l'unica vera emittente libera di questa città. La radio senza le 3P, senza pubblicità, senza partiti e senza padroni. Senti, con un personaggio come te ospite in radio non potevamo che parlare di un sacco di cose, perché sei venuto a portarci il tuo CD bootleg, l'ultimo CD dei Fleur du Mal, sei venuto a parlarci di un festival che sta per cominciare, sì. E già te vedo con la tua chitarra con la piuma messa là come gli indiani d'America. Bravo. Quindi insomma sarà una puntata ricca. Cominciamo da bootleg, che sì. Ci dici di sto CD? Putre, che è il nostro primo CD live, il primo CD live di Fleur du Mal. Noi sono tanti anni che suoniamo, abbiamo fatto 8 album in studio, però la nostra vera dimensione giusta è quella del live. Siamo una band live e quindi sono anni che parlavamo dell'idea di registrare un live, finalmente ci siamo riusciti a registrarlo come si deve, con multitracce, e quindi a mixarlo come si deve, a fare un album che suona pure bene. Che poi fuori onda ci dicevi che comunque l'avete registrato live, ma quasi analogico, insomma una cosa complessa. No, abbiamo registrato live prendendo i singoli canali da un mixer direttamente dai Direct Audio Mixer, e poi abbiamo fatto un passaggio di masterizzazione in uno studio professionale per farlo suonare come si deve, insomma, perché appunto, visto che non avevamo speso molto per registrarlo, dato che non avevamo pagato lo studio, abbiamo detto vabbè, ma due soldi spendiamoli per fare un mastering serio, e quindi suona bene. Senti, andiamocelo subito a sentire da questo bootleg, che cosa ci fai ascoltare? Vai a dire la traccia numero uno, che si chiama Revolution Blues. Money, let's get now. Senti, ma questo l'avete suonato proprio live, così live. Com'è? È un concerto, è un sono due concerti in cui, quindi è proprio è live, non ci sono trucchi, non ci sono autotune. Non c'è trucco, non c'è inganno. Senti, ma tutto sto blues, ma ci vuoi parlare di sto festival che sta per andare? No, no, no, festival, e dimmi un po', dice qualcosa, che qua sono impaziente. Se quattro gruppi, è la quinta edizione del festival del San Lorenzo Blues Festival, che è una creatura che è nata nel 2014, l'idea è nata suonando alle jam session che organizziamo, le jam session di cui organizziamo in giro per il quartiere. Il gruppo dei musicisti ha detto no, perché non facciamo un festival? Perché piano piano ci siamo organizzati per organizzare il festival del quartiere. E che gruppi ci saranno? Sabato ci saremo noi, poi Super White John, che sono un altro gruppo figo che escono lo blues, rock e psichedelia. Poi i Red Wagons, che invece sono un sestetto e fanno ritmi and blues un po' stile New Orleans, col piano e due fiati. E poi l'apertura è affidata a Spooky Man, che è un one man band che suonerà chitarra e poi una batteria artigianale che si fabbrica da solo. Senti, tutto questo dove si svolge? Al Cinema Palazzo. Al grande Cinema Palazzo, dai. Anche perché Stefano, noi ne parlavamo, quando è che ci siamo visti, due settimane fa, tre settimane fa, ne parlavamo appunto qua sotto di come la situazione a San Lorenzo è un po' cambiata, no? La situazione dei locali dal vivo. Appunto, è drammatica la situazione che sta attraversando il quartiere, sta attraversando un periodo veramente buio, perché appunto mancano dei punti di riferimento. Abbiamo visto quello che è successo purtroppo al 32, che praticamente è stato cancellato praticamente dai nostri radar dei compagni, e poi stiamo vedendo che insomma il quartiere si sta svuotando progressivamente, soprattutto si sta svuotando di eventi culturali, di eventi che possano attirare la gioventù e fargli fare passare una serata intelligente a sentire musica o cinema o teatro o quant'altro, invece di rimanere davanti ai bar a bere alcol senza far nulla. Questo è quello che succede. Fasse due canne come al solito. Sì, ma quello uno si può fare il bicchiere di vino e due canne mentre ascolta della musica o mentre vede un film, non lo so, cioè ci vorrebbe due canne un po' nella più migliore delle ipotesi, era un eufemismo, sì, il mio. Sì. Voglio dire, ci vorrebbe un minimo di produzione culturale che ormai purtroppo sta cominciando a latitare nel quartiere, capito? E a questo contribuiscono tanti fattori, non è solo il discorso del tra virgolette degrado che conosciamo qui, purtroppo i problemi del quartiere sono tanti, ma anche tanti altri fattori, non so, io farei un esempio su tutti, questa cosa vergognosa dell'ex dogana che sta veramente macinando il quartiere, sta togliendo, diciamo, il pubblico dei giovani al quartiere per riversarlo in una situazione che sappiamo che è a dir poco brutta decisamente. Cioè questi vanno avanti a colpi di permessi raccattati non si sa bene come, senza minimo rispetto per il quartiere. Sappiamo che i residenti qui di Via dello Scalo sono impazziti la scorsa estate per volumi allucinanti fino alle 4:30 del mattino, e questi non rispettano nessuna regola, i permessi li prendono in maniera mafiosa, non si sa bene come e con quali tangenti dietro, sono tutti mezzi irregolari, cioè mentre magari invece vanno a fare un controllo a un pubetto di San Lorenzo e gli rompono i coglioni perché c'è una virgola fuori posto, cioè non va bene tutta questa situazione. Comunque la logica di una città che sta cambiando, purtroppo non è il problema solo della Libera Repubblica di San Lorenzo, è tutta Roma che sta facendo questa fine. Sì, purtroppo c'è da considerare in più che appunto, come hai detto te giustamente, la Libera Repubblica di San Lorenzo faceva un po' comunque caso a sé, nel senso che siamo un po' un'enclave di villaggio gallico in mezzo alle legioni romane, no? Diciamo, cioè abbiamo sempre tenuto botta, siamo un quartiere resistente storicamente, è solo che purtroppo ultimamente manca un po' di produzione culturale del comunque quartiere. Forse la cosa che hai detto pure tu della caduta del 32 è un simbolo importante, sì, di tante sì, cose direi che sono successe nel condominio, direi, perché voglio dire insomma fino a qualche anno fa, sto parlando di insomma 4-5 anni fa, c'erano il 32 anche elaborava delle iniziative di vario genere, si va dal carnevale alle iniziative per l'Irlanda, alle iniziative per i Paesi Baschi, iniziative contro il carcere, cioè sono tanti elementi, tanta produzione culturale e politica che viene a mancare. Comunque io voglio salutare i miei amici e fratelli del grande Cocomero di San Lorenzo, che è una grande realtà che aiuta i bambini, che comunque resiste a modo suo producendo casomai feste per bambini, partecipando a piccole iniziative anche se non anche culturali, sono grandi, grandissimi, sì. Graziella, Ciccio, Mimmi, tutti e forti. Tutti quanti i ragazzi che lavorano in quello spazio. Senti, ci andiamo a sentire un'altra canzone blues, Luna Blues, sempre da bootleg. Questa è sempre da bootleg, sì, dal vivo. Che adesso è diventato dipinto di verde. Non ci riesco a passare davanti. Sogno un mondo vero, senza vita. con i Fleur du Mal quanti CD avete fatto? Abbiamo realizzato, questo è il nono album praticamente, i primi due sono usciti su vinile, uno nell'89 e il secondo nel 94, e poi gli altri tutti su CD. Ma ce l'ha ancora un vinile da portarmi, da tenere nella mia collezione? Sì, c'ho ancora vinile. Qualche copia dei primi due, sì. Me li porti da tenere nella mia volentieri, collezione? Volentieri. Senti, ma voi avete fatto anche un CD per il Manifesto, ricordo male? Sì, abbiamo fatto un CD con il Manifesto nel 2001, si intitolava Road Sweet Home. Sono ancora brani che comunque spesso suoniamo dal vivo. Ah, vedi? Sì. Quindi 9 CD, bene, un buon numero, un numero pari. E oltre ai CD, ovviamente in tutti questi anni tanti live, immagino, sì. Non solo in Italia, non solo a Roma, ma in giro. No, noi giriamo parecchio, soprattutto in Olanda, dove ci siamo un po' ritagliati uno spazio, diciamo, siamo conosciuti un po' nel giro soprattutto dei blues club olandesi, ma anche, abbiamo fatto anche qualche festival in Olanda. Poi ci siamo piano piano allargati, abbiamo cominciato a mettere dei piedi anche in Svizzera, dove ti pagano bene, e ultimamente anche in Belgio. E la prossima primavera facciamo un nuovo tour in Europa che arriverà in Olanda, però quest'anno tocchiamo per la prima volta anche la Francia, suoneremo a Marsiglia in un posto che si chiama Le Molotov. Oh. Quello che ti volevo chiedere è qual è la differenza, la risposta del pubblico all'estero rispetto che in Italia? Ecco, qui vedi, è una nota dolente, perché c'è da dire che... Intanto tutto... la lingua pure, no? Che è uno la lingua, stato... quello assolutamente non è un problema, nel senso che noi cantiamo sia in italiano che in inglese, qualche brano anche in spagnolo, però alla gente anche in Olanda piace quando un brano in italiano gli suona un po' esotico, diciamo, no, capito? Certo, e c'è da dire che insomma nel resto d'Europa almeno c'è molta più cultura musicale che in Italia, purtroppo questo bisogna dirlo. Cioè, per esempio, in Olanda a noi ci capita di suonare, loro c'hanno questa tradizione di fare i concerti la domenica pomeriggio alle 6, e il pub, il locale si riempie all'orlo alle 6, alle 8 e mezzo, come finita l'ultima nota, se ne vanno via tutti e il locale rimane vuoto. Una cosa che a farla a Roma sarebbe improponibile. Immagino che alle 6 di domenica stanno tutti appresso alle partite, al campionato, così nessuno andrebbe a... Guarda, sentire. Io per esempio vengo dal reggae, no? C'avevo un sound system e il saltamassacana, facevamo le serate e cercavamo di farle cominciare presto. Adesso mi piacerebbe uscire, c'è una bambina, faccio una vita, sono family man. E lavoro, quindi timbro il cartellino la mattina presto. Mi piacerebbe uscire, andarmi a vedere le serate, ogni tanto la vecchia scuola, qualche cantante DJ della Giamaica che mi piacerebbe vedere, però non ci vado, perché le volte che ci vado mi do appuntamento, che ne sai, col mio amico Pilo che fa qua la selezione dei DJ, ci diciamo vabbè, vediamoci a mezzanotte al posto, arriviamo là, è chiuso il posto, dobbiamo aspettare a mezzanotte no. E mezzo che apre, siamo all'assurdo. E poi alle 2 ce ne andiamo e la serata non è ancora cominciata. Cioè, io con tutta la buona volontà, se faccio i 5 e 6 di mattina, mia figlia alle 7 e mezza mi viene a svegliare, poi devo andare a lavorare, non ce la faccio a ripiarmi. Cioè, è proprio una cultura che non è progredita, non è andata avanti e non permette alla vecchia scuola. Quindi sono tutti ragazzini che vedono sti concerti, non c'è la possibilità per noi. Io ho 45 anni, per noi che ormai abbiamo... non te voglio dire una certa età, perché non mi sento vecchio, però comunque non siamo più ragazzini, di andarci a vedere un concerto, cioè non abbiamo più questa possibilità. Quindi ormai rassegnato, vedo, che ne so, c'è già Sciaga a Roma, non ci vado, ci sta Trinity a Roma, non ci vado, perché... Allora, a questo punto vorrei aggiungere appunto che il festival che sarà sabato prossimo, sabato 3 febbraio al Cinema Palazzo, il San Lorenzo Blues Festival, comincerà puntualissimo alle ore 10:22 con la prima band. I tempi sono stretti perché nel rispetto del vicinato a Luna bisogna staccare con la musica là. A caso mai il salto ce lo faccio. Quindi alle 10 attacca Spooky Man, alle 10 e mezzo termina Spooky Man, 10 minuti di cambio palco, alle 22:40 attaccano i Red Wagons, che sono un sestetto, fanno rhythm and blues stile New Orleans, sono veramente fighi. Dopo mezz'ora della loro esibizione, 10 minuti di cambio palco, e ci saranno i Super White John con il loro blues rock contaminato con psichedelia, un po' nella tradizione delle jam band, un po' stile Grateful Dead per intendersi. E dopo mezz'ora di Super White John ci saranno Fleur du Mal, che inizieranno puntuali alle ore mezzanotte. e chiuderà la serata la jam session finale che comprende tutti gli artisti della, del festival come fighissimo. Tradizione del San Lorenzo Boots Festival. Fighissimo. Vabbè, io casomai un salto ce lo faccio, vengo a vedere, perché il piacere di io vi consiglio di venire presto, perché l'anno scorso abbiamo fatto sold out al cinema e c'è stato che chi è arrivato tardi non è riuscito proprio a entrare. Sì, ho provato ad andarmi a vedere Ken Booth quest'anno, Luca e il fratello Paolo, e non siamo riusciti a entrare. Perché sì, pure lì hanno fatto la prevendita e quindi molta gente era in lista, in realtà noi ci siamo presentati e non hanno più fatto aprire le porte dopo. Comunque le pure lui ha suonato alle 2 di notte, quindi probabilmente me ne sarei andato prima. Però pare un concertone, chi ha avuto la fortuna sì, di ho capito, assistere. Però figlio mio, io poi c'ho una vita, c'ho una bambina che mi viene a svegliare 7:30. Senti, a questo punto Iguana, dilettaci, facce sognare, suona per noi. Allora qui sono qui da solo con la chitarra e quindi vi propongo un brano in versione acustica. Questo è un brano di Fred Dumas che è contenuto anche in bootleg e che suoneremo anche a festival con tutta la band. Qui ve lo propongo in versione acustica, è un atto d'accusa contro la terribile politica dell'Unione Europea che chiude più tutte e due gli occhi sulla strage che sta avvenendo nel nostro meraviglioso mare, il mare Mediterraneo, che una volta era la culla della civiltà e che invece purtroppo sta diventando la tomba dei migranti. Questa si chiama 800 fantasmi. Ottocento fantasmi bussano alla tua porta, 800 fantasmi morti alle tue coste, vergogna Europa, euro vergogna, vergogna Europa, euro vergogna, mare nostro, era una culla, mare nostro, ora una tomba. Eight on the coast, tied at your coast. Eight on the coast, knocking at your door. Shame you of shame, shame you of shame, shame you of shame, shame you of shame. I'm nostro, it was a cradle. Mare nostro, now is a grave. Ottocento fantasmi morti alle tue coste, 800 fantasmi bussano alla tua porta, vergogna Europa, euro vergogna, vergogna Europa, euro vergogna, mare nostro, era una culla, mare nostro, ora una tomba. Shame of shame, shame of shame, shame of shame, shame of shame. Thank you. Stefano Iguana è il più grande di tutti, Flair du Mal, poeta maledetto. Grande. Grazie. Stefano. Grazie. Faccene sentire un'altra, te mando, stiamo facendo la diretta sul sito della pagina di Attica Blues, faccio la diretta pure per i miei contatti sul mio profilo personale. Benissimo. Che allora, fai? Adesso vi faccio un blues con la tecnica della slide guitar, che è una tipica tecnica del blues della zona del Delta del Mississippi. Si usava a suonarlo col collo di bottiglia per ottenere questi suoni così. Back home, you gotta feed your soul. You gotta feed your soul. You gotta feed your soul. You gotta feed, gotta feed your soul. Grazie, grazie, grazie mille Andrea. E sembra Stefano. Ti volevo chiedere, Stefano, il tuo soprannome intanto è Iguana, e sì, questo mi fa capire che si riferisce a Iggy Pop, ma quali sono i tuoi altri eroi musicali in realtà? Dunque, beh, per quanto mi riguarda, insomma, i gusti musicali, io sono molto rockettaro e bluesettaro. Mi piacciono, sono cresciuto ascoltando Rolling Stones, Hendrix, Dylan, su tutti, e sono cresciuto così, e quindi poi il mio gusto è sempre rimasto un po' fedele a questa linea, diciamo. Per cui quindi poi, il blues più bianco, diciamo. No, blues nero. Io fra gli artisti blues quello che apprezzo di più in assoluto è Buddy Guy, il mio chitarrista preferito, che in questo momento, dopo che è morto il grande B.B. King, è il bluesman più vecchio in vita, che in attività lui suona tuttora, insomma. Tutti gli storici del blues, diciamo, Robert Johnson, Medley Waters. Vabbè, certo, no? Certo, certo. Ma poi insomma mi piacciono tantissime anche altre, tantissime altre cose. Sono fan dei Waterboys, che è tutt'altro genere, invece fanno folk rock, diciamo. Mi piace molto il rhythm and blues stile New Orleans, per esempio Dr. John, faccio un nome così a caso. Ma ascolto un po' di tutto, vado da Santana al jazz, dal rock and roll al folk, cioè, basta che diciamo, sia buona musica, insomma. Esatto, io poi sono dell'opinione che quando la musica è buona il genere è relativo, insomma, voglio dire. Come diceva Duke Ellington, la musica si divide in due, quella buona e quella no. Giusto. E lasciamo ai critici musicali forse le etichette per appunto indirizzare poi il consumatore, sì, magari. Spesso, però, l'etichetta sta stretta pure. Certo, come no. E allora ci fai sentire qualcos'altro dal vivo? Ma a questo punto, visto che sono accordato con la cordatura aperta in sol, vi faccio sentire un altro blues. Questo è un traditional, invece è roba del 41, roba recente. Today, gonna pack my things, make my getaway. Well, I'll be trouble, be worried in my mind. Well, I just can't be satisfied, and I just can't keep on crying. Well, go away from you, want me back no more. Going down south, don't you wanna come? I'll be trouble, be worried in my mind. Well, I just can't be satisfied, and I just can't keep on crying. Don't you wanna come? I'll be trouble, be worried in my mind. Well, I just can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Oh yeah. Fantastico. Le origini proprio del blues. Ma tu, questa tradizione blues da dove ti viene? Beh, ascoltando tanta musica, beh, a parte che se vogliamo fare un discorso un po' più profondo musicalmente, possiamo dire che tutta la musica moderna occidentale viene dal blues. perché sia il jazz, sia lo swing, il jazz e tutti i suoi derivati vengono da blues, hanno come radice comune il rhythm and blues, e quindi il rock and roll e tutti i suoi tutti i derivati del rock vengono sempre da blues, e il rhythm and blues, da cui viene anche lo ska steady, il reggae, sempre quella radice è. Quindi se vogliamo fare un discorso un po' cumulativo, possiamo dire che tutta la musica moderna occidentale ha la radice comune, è il blues. Sì, è vero. Che poi viene tutto dalle piantagioni di cotone, che poi viene tutto dall'Africa, io dico viene tutto sempre dal battito del cuore, dalla terra che trema, dal tum-tum. Sì, sì, sì. Tum-tum. Sì. Tum-tum. Cioè viene tutto da là, dal suono della mamma, da quando eravamo piccoli. Cosa vogliamo approfondire? Amiri Baraka, che è un famoso scrittore afroamericano, appunto un teorico del blues, anche lui a livello scomparso politico, da poco, diciamo. Scomparso 2 anni fa. Lui sosteneva che è vero, è musica che viene dall'Africa, ma non è la stessa cosa, perché il blues nasce in una situazione di schiavitù. E quindi, nascendo in una situazione di schiavitù e di non libertà, ovviamente questi africani hanno elaborato un altro modo di interpretare la loro tradizione musicale, capito? E da lì che è venuto il blues, e che è un po' differente da... Infatti esiste anche molto blues africano, recentemente ascoltiamo tantissimi artisti molto validi di blues africano, però si sente una differenza proprio sostanziale. Come no, da una parte il Mississippi in America, dall'altra il Mali, e quindi eccolo là tutte le varie radici africane. Esatto. Ali Falca Touré mi viene in mente. Esatto, insomma, esatto, altri, lui pensavo soprattutto. Sì, tanti altri. Ma non solo, tanti altri. Sì. No, tantissimi, e poi insomma, poi tutto l'afrobeat che viene dopo, e insomma sì. Ma Muddy Waters diceva, non è detto che per suonare il blues devi essere per forza nero, puoi anche essere bianco, rosso, giallo, non importa, l'importante è che tu il blues lo senti e lo vivi veramente. Perché quando non è vero, quando non è sentito, quando non lo soffri sulla tua pelle, allora non manca il blues. Infatti, non c'è più. Come diceva anche Jimi Hendrix, il blues è una musica facile da suonare ma difficile da sentire dentro. Esatto, forse è proprio esatto, questa la definizione esatto. Perfetta. Sì, anche un gruppo reggae ha detto "Don't taffy dread to be rasta". Esatto. Mi è venuto in mente. È giusto, il paragone è corretto, è esattamente la stessa cosa. Bisogna sentire le cose per avere un valore vero, sì. Sì. Allora andiamo avanti? Come no? Ancora manca un quarto d'ora, quindi abbiamo tempo per ascoltarti dal vivo. Facciamo la diretta sul nostro canale Attica Blues. L'abbiamo fatta. Continuiamo a farla. Perché insomma Iguana è un personaggio che merita. Ma io vi farei sentire un altro traditional a questo punto, perché è proprio. Proprio ieri me lo stavo riascoltando, il grande Robert Johnson, e questo è uno dei suoi traditional più sentiti, si chiama Come On In My Kitchen. Back again, you better come on into my kitchen. It's gonna be raining outdoors. My woman is gone, she won't come back. I took the last nickel from a nation sack. You better come home into my kitchen. It's gonna be raining outdoors. My woman is gone, she won't come back. talk to the last me girl. From my natural side, to the como in my kitchen. It's gonna be raining out below. My weapon wind may blow till Canada winter pile on snow. Jubal a promo in my kitchen. It's gonna be raining outdoors. Along the way, you can on a winter, I long so. You better come on in my kitchen. It's gonna be raining outdoors. Stupendo, veramente stupendo. Non vedo l'ora di venirti a sentire sabato 3, soprattutto nella jam session finale, perché quella sarà una cosa emozionantissima con tutti i musicisti. Veramente. Quella è una tradizione del San Lorenzo Blues Festival, perché appunto, come ti dicevo, è nato dalle jam session che facciamo qui nel quartiere di San Lorenzo, e quindi è sempre stata il marchio di fabbrica del festival, la jam session finale con tutti gli artisti del festival, appunto. Beh, perché poi la jam session è il modo naturale di suonare, diciamo, il gruppo è l'evoluzione dopo che si fa le prove, che ci si vede sempre, mentre la jam session sono i musicisti che si incontrano una sera al bar, se bevono un whisky di troppo, un rum di troppo, piano uno strumento, piano i cucchiaini, piano le pentole, piano i bicchieri, battono sul tavolo, uno c'ha una chitarra, uno c'ha un sassofono, e così nasce la musica quella che noi abbiamo poi imparato a conoscere come la storia della musica, la musica degli anni venti, sì, dei meravigliosi anni venti, dell'Ottocento, la musica delle piantagioni. Sì, la jam session è sempre stata una tradizione nel blues, nel senso che molto spesso capitava appunto che magari c'era il concerto di un bluesman e un altro bluesman lo andava a trovare, oh, ma famoso un pezzo insieme, e così uscivano fuori queste cose improvvisate, no? Per cui poi il blues è abbastanza un linguaggio che è come proprio il burro, ci si può mettere sopra la lici o il miele, quindi su quelle 12 battute c'è moltissimo da poter improvvisare, insomma. Il blues è anche una musica di sofferenza, sì, come la musica spesso parla di guerra e parla d'amore, ma spesso parla di sofferenza, cioè l'artista soffre per tirare fuori qualcosa, o è molto felice o soffre, diciamo. Sì. La musica viene da grosse emozioni, tutta l'arte viene da grosse emozioni, e ne produce a sua volta di altre grosse emozioni. Trasmette, sì, le trasmette, l'emozione trasmette altre emozioni, è come la risata, quando ridi fai ridere altre persone, la trasmette, sì. Poi ci sta il rock, che è basata su quella che la chiesa non vuole, il blues pure è basata su una nota blu. Sapete che il blues viene chiamato la musica del diavolo, no? Ma ci sono molte leggende su questo argomento, no? C'è la famosa leggenda di Robert Johnson che si ferma all'incrocio, al crocicchio, incontra il diavolo che gli accorda la chitarra in maniera particolare e poi lui diventa un bravo chitarrista. Ovviamente in realtà noi sappiamo che Robert Johnson si è chiuso, a un certo punto è sparito per 6-7 mesi, si è chiuso a studiare e dopo era diventato bravo, insomma. Ma una delle cose più interessanti sul perché la musica si chiama musica del diavolo, sapete che la Chiesa è, diciamo, la Chiesa proibiva l'uso di alcune note nella musica. In particolare proibiva alcune note che erano considerate, ce n'era una in particolare che veniva considerata come suonare al campanello della porta del diavolo. Questa nota era per i musicisti si chiama la quinta bemolle, cioè la blue note, sarebbe praticamente è una delle tre blue note. Le blue note sono tre in realtà, c'è la terza blues, la quinta bemolle appunto, e poi la settima blues, esatto. Ma la quinta bemolle in particolare era vietatissima dalla Chiesa, perché era come suonare, era come suonare al campanello della porta del diavolo, perché è una nota che in effetti di per sé è molto dissonante, ma ne fa parte della scala blues, è una delle note più importanti della scala blues. Caratterizzanti, no? Della scala blues, sì, assolutamente. È caratterizzante della scala blues. La quinta bemolle. La quinta bemolle, per spiegarmi meglio, diciamo che se stiamo facendo un blues in mi e vado a toccare si bemolle, ecco lì che c'ho quella nota, ecco la scala blues, ve la faccio sentire. Questa è la scala blues. E la nota che in questione è questa. Senti, la si bemolle, che suona proprio dissonante. Sai pure il la del rock? Come il la del rock? Che vuol dire? Pure nel rock and roll c'è una nota vietata, per questo il rock and roll della Chiesa. Sono sempre quelle che stiamo dicendo. Sono le tre famose note del... le tre famose blue notes che fanno parte della scala blues e che erano appunto vietate dalla Chiesa. Questo è uno dei motivi per cui è la musica del diavolo, no? C'era chi addirittura ha fatto Hendrix, per esempio, fece una cosa molto astuta, un brano molto conosciuto di Hendrix, Purple Haze, che è lui lo comincia con un accordo, con un unisono con la quinta bemolle, cioè te in mi, e lui comincia con si bemolle, proprio con la nota più dissonante di tutte, proprio con quella nota là, con la quinta bemolle, quella nota che era proibita dalla Chiesa. Lui ci comincia al pezzo addirittura, capito? Una sfida, quindi una sfida, sì. Aperta, una sfida. Senti, sono le 16:53 qua via dei Volsci, c'hai tempo per forse due pezzi, facce sognare. Due pezzi, allora adesso mi riaccordo normale. Faccene uno del diavolo. Del diavolo? Da poeta maledetto quale sei, Fleur du Mal. Stefano Iguana, Fleur du Mal, storia del reggae italiano, anzi romano. Colonna portante. So down in the road, nothing is your down here. Yes, cause I'm sound, which is I know, live like a man. I got dreams of today to live up tomorrow, live like a man. Well, I just look around in a fine, real life on the road, what baby sweet down the road, sweet old. Down the road, sweet old. Down the road again. Down the road again. I know when I was down at that close, or down in the road, nothing is sure down here. Just calls and sound, wishes I know, live like a man. I got dreams of today to live up tomorrow, live like a man. Well, I just look around and find a real life on the road. Oh, baby, sweet home, down the road, sweet home, down the road, sweet home. Down the road again, down the road again. Io ti chiederei di chiudere proprio con un traditional di quelli proprio veramente da plantation di cotone. Da plantation? Da plantation, sì. Back no more. Senti, forse qua ci rimane ancora qualche minuto, potresti farci un altro pezzo da bootleg. Ma io direi passa un brano dal CD. Ma no, ma faccelo tu dal vivo. Faccelo tu dal vivo. Allora, questa non è in bootleg, è un altro brano dei Fleur du Mal. Questo risaliva all'98, si chiama You Must Be Choking. Suonerebbe in italiano come: ma che stai a scherzare? Make shopping in your town, while people stand around the children crying, and everybody else, someone dying. You must be joking. What say? You must be joking. You must be joking. You joking. Must be joking. You think it's funny to spend the day making shopping in your town, for people sound on the children crying, and everywhere else someone dying. You must be joking. What's day? You must be joking. You must be joking. You joking. You smoking. You must be joking. Stefano, noi ti ringraziamo per la tua stupenda esibizione, veramente top. Grazie a voi, lunga vita Radio Onda Rossa. Che campi forte per altri 150.000 anni, libera e senza padroni. Sottoscrivete, Time. Veniteci a trovare qua a Via dei Volsci, accattatevi la scarceranda che è uscita più bella dell'anno scorso e dell'anno prima. Tante le iniziative dove potete trovarla, e poi venite al Festival Blues. Quando è il Festival Blues? Sabato prossimo, sabato 3 febbraio, dalle ore 10 al Cinema Palazzo, in Piazza dei Saniti numero 9 a San Lorenzo. Senti, ma lì sarai elettrificato però? Certo, beh, saremo si suona in elettrico, sì. Senti, sentiamoci un altro brano dal tuo CD bootleg. Quale ci consigli? Dici numero della traccia? Un po' di funky, numero 2, si chiama Fun Time. Vai. Questa pelle è Fleet Wild. Senti Stefano, tu, visto che stai così dentro il mondo del blues, consigliaci qualche cantante nuovo blues più o meno emergente della scena attuale. Guarda, c'è questa cantante fortissima che è uscita da qualche anno che vi consiglio di andare ad ascoltare, Beth Hart si chiama. Ha una voce fantastica, poi soprattutto interpreta blues perché lo sente per davvero. Lei è americana? Sì. E verrà in Italia, chissà. C'è modo, speriamo, di prenderla? Speriamo. Speriamo. Allora. Speriamo. E qualcun altro meno conosciuto? Ma ce ne sono tantissimi, il blues è pieno di nomi poco conosciuti, vi potrei citare il compianto Jeff Feely, che era un chitarrista canadese che suonava cieco, che suonava con la chitarra sdraiata, che purtroppo non c'è più da qualche anno, ma vi consiglio di andare a sentire tuttora Buddy Guy, che è il più anziano bluesman in circolazione, ma ancora fa dei dischi meravigliosi, e soprattutto quando suona dal vivo è una macina, veramente non si ferma un attimo. E poi vi consiglio Kid A. Lang, fra i bluesmen più giovani della nuova generazione. E poi un chitarrista fortissimo, Derek Trax, che era il chitarrista degli Allman Brothers, che prese il posto di Dickie Betts, e che è il nipote del batterista Butch Trax, il batterista della band Allman Brothers. Ma lui è un chitarrista fortissimo con una tecnica slide fenomenale, Derek Trax, andatevelo ad ascoltare. Abbiamo preso nota, te lo faremo sapere allora. E allora, cosa, Attica Blues torna giovedì prossimo sempre alle 16, di cosa parleremo? Beh, io direi di tornare alla musica classica e il jazz, che mi ha sconquifferato abbastanza. E allora doveva essere settimana scorsa, ma poi quella morte improvvisa di Masichella ha fatto fare quella bella monografia, e quindi allora torneremo ancora fra il rapporto fra musica classica e il jazz giovedì prossimo.